Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 29 aprile, ultima trasmissione di questo mese per quel che riguarda Città Fujiko Live Club, che è la trasmissione che ogni mercoledì quasi va in onda naturalmente su Radio Città Fujiko da Bologna, ma potete ascoltarci oltre che sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, potete ascoltarci anche tramite DAB in tutta la Toscana, in tutta la Romagna, in tutta l'Emilia Romagna, scusate, e in tutta la Lombardia, più naturalmente il web con l'apposita app che potete scaricare dal nostro sito. E il sito naturalmente è radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e anche oggi abbiamo una novità che in questo caso viene dagli Stati Uniti, una band che probabilmente non è molto conosciuta qui in Italia, si chiamano Uncle Lucius, è un sestetto, viene da Austin, Texas ed è attivo fin dal 2006. E loro erano dopo una serie di album, parte in studio e parte dal vivo, erano sull'orlo dello scioglimento, anzi praticamente si erano già sciolti, quando una delle loro canzoni, che si chiama Keep the Wolves Away, mantieni i lupi lontani, è stata inserita nella serie Yellowstone, una serie che credo fosse interpretata e prodotta da, non mi ricordo più il nome ma ve lo dirò, e, Kevin Costner, ecco è lui. E il leader della band Kevin Galloway recuperò alcuni dei musicisti, riformò la band che è tuttora attivo. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live in 25 ed è il terzo album dal vivo, è stato registrato al Grunion Hall di New Braunfels in Texas il 7 e l'8 marzo del 2025 e naturalmente per iniziare non poteva essere cosa migliore che ascoltarci proprio il brano che ha portato tanto successo alla band, Keep the Wolves Away. Spills into the Gulf of Mexico, where the skyline's colored by chemical plants, put bread on the table of the working man, where the working man does his best to provide safety and shelter for kids and a wife, giving a little of his soul every day, making overtime to keep the wolves away. Thank you. company man tried to dig my daddy's grave. And it happened on a French-owned tanker ship, spilling poison in a Galveston Bay. Well, the liquid fire filled his lungs and his eyes, silenced in immortal cries. Cold in the grip, the death-stinging pain, he fought like hell to keep the wolves away. Dad was sick as a dog, but he made a recovery just as Raffi Arts. The settlement came and we moved out of town, where the sky is and heavy with refinery clouds. He's still alive, he's doing good, he's in his 60s, but the money's running out and he's reaching for pennies. So I'm going for broke with every song I play, 'cause now it's my turn to keep the wolves away. È straordinario come le serie televisive facciano conoscere, apprezzare, portino alla ribalta fior di canzoni, fior di musicisti, fior di gruppi. Uncle Lucius, che è la band che vi propongo quest'oggi con la sua ultima novità discografica, Live in 25, è una miracolata, appunto, dalla serie Yellowstone, come detto in precedenza. Questo brano che ci siamo ascoltati, Keep the Wolves Away, è stata inserita in quella raccolta, in quella serie, scusate, e ha fatto sì che la band, praticamente sciolta, si riformasse sotto la guida di Kevin Galloway, il cantante, chitarrista e fischiatore. Il brano che ci siamo ascoltati, lo ripeto per la terza volta, forse anche quarta, si chiama Keep the Wolves Away, mantieni i lupi lontani, parla di lupi naturalmente, e questo mi ha dato l'idea, diciamo così, di ascoltarci in questa prima parte della trasmissione canzoni che parlano di lupi. Ce ne sono tantissimi, lupi in senso sia animale ma anche umano, e tutte le accezioni del termine che possono essere buttate, diciamo, sul tavolo, e quindi canzoni sui lupi, o per meglio dire che parlano di lupi, a cominciare dalla prima. Abbiamo in scena un personaggio che non ha bisogno, spero, di presentazioni. Si chiama Patti Smith, conosciutissima anche in Italia, anzi direi che negli ultimi anni forse è più in Italia che a casa sua a New York, anche se lei viene dal New Jersey, ma questo è un altro discorso. divenne famosa non nel migliore dei modi, onestamente, il 9 settembre del 1979, e il giorno prima anche con due concerti a Firenze e qui a Bologna, dove ci fu un po' di caos, tantissima gente inaspettata, direi, e appunto fu un po' un caos, ma comunque lei si è ripresa molto bene, ha fatto una serie di cose assolutamente bellissime, album, poesie, letture, libri e tante altre cose. Ci sono molte cose dal vivo nella sua discografia, distribuite fra un album live e diversi singoli e una raccolta, che è questa che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Land 1975-2002, cioè Land 1975-2002. È stata pubblicata appunto nel 2002 ed è una raccolta che contiene delle canzoni dal vivo inedite. Questa è una di quelle, è stata registrata all'Élysée Montmartre a Parigi il 10 e 11 luglio del 2001. È un modo di dire che molti di noi usa e che praticamente il ragazzo che urla al lupo. Boy Cried Wolf, lei è Miss Patti Smith. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the storm and o'er the mead. Gave thee clothing of delight, soft as clothing, woolly, bright. Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child, I a child, and thou a lamb. We are called by his name, little lamb, God bless thee. Little lamb, God bless thee. Been told, retold from the secret scriptures to the tabloids or the falsified, none above a whisper from the soul of gold to the belly of a boy. They drew him from the past like they drop blood, tied him to a tree like Saint Sebastian, and he turned his head, let the arrows fly through the trees, trees on a man of leaves, and the boy cried, the moon, but it won't answer, and he fell on his knees as the bowl around, and the blood, blood, sacramental blood, and the boy cried, wolf, wolf, don't come, wolf within, boy cried, wolf. Myself, 'cause they drew me from the past like they dropped blood. comes down upon this sad sweet earth. I lie awake at nights and think about me. Others use your things, like what a fool I've been. I can't see a far way, but I'll let you slip away. To blame for playing a stupid game. I thought I'd it only call and you run, but back to you never showed a honey. Well, I shall learn that it seems I need you more each day. Heaven knows why the tender goes that way. Now it's far too late, and I've lost this time. Like a boy who cried. Due brani con il titolo molto molto simile. Prima era Patti Smith con il suo Boy Cried Wolf. A proposito di Patti Smith, devo fare una precisazione, nel senso che ho detto che lei arriva dal New Jersey, ma infatti arrivava dal New Jersey a New York quando si è staccata dalla sua famiglia, che ha girovagato un po' per gli Stati Uniti. Lei in realtà è nata a Chicago, però appunto dopo aver girovagato con la famiglia per due o tre stati americani, si è staccata la famiglia, è andata a New York e ha avuto la carriera che tutti conosciamo. Il brano dopo, lo ripeto, questo si chiamava Boy Cried Wolf, quello di Patti Smith, e quello dopo invece si chiama The Boy Who Cried Wolf, ed è un brano degli Style Council, riconoscibilissimi e conosciutissimi, Paul Weller, ex Jam, e Mick Talbot, ex Dexys Midnight Runners, unirono le loro forze, uno chitarrista cantante e l'altro tastierista, dal 1982 al 1989. Hanno fatto due album dal vivo, questo era il secondo, si chiama In Concert ed è registrato in diverse occasioni. Questa The Boy Who Cried Wolf è stato registrato all'Entertainment Center di Melbourne in Australia il 18 agosto del 1985. E se Janko e Lucius volevano tenere i lupi lontani, anzi il lupo perché era singolare, qui abbiamo invece il lupo alla porta, si chiama A Wolf at the Door, l'ultimo brano di questo album che si chiama Hail to the Thief, Live Recordings 2003-2009, l'ultimo album live in ordine di tempo dei Radiohead, conosciutissimi, non starò a parlarne, in realtà sono usciti due album dal vivo, più uno che si chiama Love the Tramps, che era scaricabile gratuitamente, bontà loro, da internet. Questo invece appunto è stato registrato in diverse occasioni, ed è diverse occasioni, ma tutte città sconosciute, nel senso che non è dato sapere dove, nemmeno la data. Il brano, lo ripeto, si chiama Un lupo alla porta, A Wolf at the Door, loro sono Radiohead. This is a song we've never played live before. Something from the Love album. is a way. È stato lo stesso Ian Hersbury a presentarci questo brano. Si chiama Brother Wolf, Sister Moon. Loro sono i Cult, naturalmente. Ian Hersbury nei suoi testi è sempre molto legato alla natura, sia alla natura in senso animale che in senso vegetale che in senso globale, diciamo. Infatti il brano che ci siamo ascoltati parla del fratello lupo e della sorella luna. Ho dimenticato di dire nella prima parte che non andrò, per meglio dire, a sviscerare i testi delle canzoni, primo perché non sono all'altezza, secondo perché perderei troppo tempo, non vi farei ascoltare la musica, che è il mio scopo principale, quello di far ascoltare la musica. Vi faccio ascoltare i brani e poi magari, se vi sono piaciuti e vi interessano, vi andate a cercare i testi e ve li sviscerate. Tutto questo, comunque, i Cult erano tratti da un'antologia che si chiama Pure Cult. Nei primi numeri, diciamo nelle prime edizioni, c'era allegato un dischetto che si chiama Live Cult, registrato al Marquis di Londra il 27 novembre del 1991, quindi ci rilacciamo a una trasmissione di un paio di settimane fa. E poi c'era anche un voucher, un coupon per mandare a prendere, non c'era ancora internet all'epoca, la seconda parte di questo concerto, che appunto si chiama Live Cult. La prima parte era insieme all'antologia, la seconda parte in proprio, però anni dopo fu pubblicata insieme in un doppio CD. Brother Wolf, Sister Moon erano i Cult. Sono stato abbastanza confusionario con i Cult, ma sarò più tranquillo, più lineare con i Grateful Dead, perché credo non abbiano bisogno di presentazioni. Loro venivano da Palo Alto in California, attivi dal 1965 al 1995, l'anno della morte del leader Jerry Garcia. Sono stati coloro che hanno iniziato tutto quel movimento che si chiama Jam Bands Movement, che a me piace tantissimo e che vi propongo tutte le volte che posso. Hanno fatto migliaia, non sto scherzando, migliaia di album live, e ci sono state due serie. La prima si chiamava Dick Speaks, era diretta, diciamo, da Dick Latvala, e ha pubblicato 36 concerti. Dopo la morte di Latvala arrivò David Lemieux, che partì con il David Peaks, che è arrivato adesso al numero 58, quindi già solo queste due cose sono 58 più 36, un bel numero di album live. E da Dick Speaks volume 14, quindi la prima serie diretta da Dick Latvala, andiamo ad ascoltarci un brano che è stato registrato alla Music Hall di Boston, il Boston, Massachusetts, naturalmente, il 30 novembre del 1973. La traduzione sarebbe praticamente Lupo incazzato. Dire Wolf, loro sono Grateful Dead. In the timbers of Canario, the wolves are running round. The winter was so hot and cold, froze 10 feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, 'twas a bottle of red whiskey. Said my prayers, went to bed, that's the last they saw of me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. 600 pounds of sin. It's grinning at my window. All I said was, come on in and don't murder me. I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Wolf came in, I got my cards. We sat down for a game. Put my debt to the queen of spades, but the cards were all the same. Don't murder me. Vengono da Londra, si chiamano Mumford & Sons, vengono da Londra, dicevo, ma in realtà hanno contribuito alla grande revival del country folk americano. Qui erano molto più elettrici rispetto ai primi due album, che hanno avuto un grandissimo successo e appunto hanno dato il via a questo revival americano assolutamente inaspettato. Una delle caratteristiche della band, che da quartetto adesso è diventato un trio, sto parlando di membri fissi, è quella che passano il concerto di canzone in canzone scambiandosi gli strumenti, cioè praticamente prima in quattro, poi adesso in tre, suonano tutto, dalle tastiere, alla chitarra, alla batteria, ai fiati, e naturalmente però nei concerti poi sono affiancati da altri musicisti. L'album che ci siamo ascoltati si chiama Live from South Africa, Dust and Thunder. È il terzo dei loro album live, è stato registrato al Monument Amphitheatre di Pretoria in South Africa, appunto, il 6 e il 7 di febbraio del 2016. Il brano che ci siamo ascoltati, quello che concludeva a quel tempo i loro concerti, e uno dei brani più famosi dei Mumford & Sons, si chiama The Wolf. Vengono da Brooklyn, naturalmente siamo a New York City, sono attivi dal 2001, si chiamano TV on the Radio, hanno una musica che mescola un sacco di influenze fino ad arrivare ad essere per un certo verso abbastanza personale. Non hanno fatto album live nella loro interezza, nel senso di long playing, di album appunto interamente dal vivo, ma hanno diversi singoli e questo extended play che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Live at Amoeba Music, un album che è stato registrato in un negozio di dischi che sta a Hollywood in Los Angeles, California, che è per noi che amiamo ancora il supporto fisico, è un'autentica mecca, forse qualcosina di più. Pensate che è talmente grande che ha un parcheggio sotterraneo per i clienti, ed è una cosa per noi che siamo abituati qui in Europa, ma anche negli Stati Uniti, a negozi molto molto piccoli, molto tranquilli, molto incasinati, sì, però veramente piccoli. Questo Amoeba Music, che ha tre negozi, Berkeley, Los Angeles e San Francisco, è veramente una cosa spettacolare. Comunque torniamo ai TV on the Radio. 22 settembre 2006, siamo in un in-store concert nel quale loro eseguono uno dei classici della loro produzione che si chiama Wolf Like Me, che ci andiamo ad ascoltare e che è l'ultimo brano di questa prima parte, l'ultimo brano dedicato ai lupi. Ce ne sarebbero ancora tantissimi, vi cito solamente Bonnie Prince Billy, Iron Wine, Prodigy, Metallica, gli U2 anche, e magari sarà bello fare una seconda trasmissione sui lupi. Intanto vi lascio con questo lupo come me, Wolf Like Me, TV on the Radio. Thank you. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Texas and moving down to Texas. Texas, and moving down to Texas. I'm from Texas and I'm telling you, I never seen the likes of it. I never seen the likes of it. I'm from Texas and I'm telling you, you're moving down to Texas with a burden of the Tax-O-Lax. You're moving down to Texas and they're buying up the cowboy hats. You're moving down to Texas where the oil and the freedom flow. You're moving down to Texas for the pony and the rodeo. Oh, oh. Texas, all hail the mighty state. Mercoledì 29 aprile 2026, siamo alla seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che naturalmente è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi, ultimo album live, il terzo della loro discografia per Uncle Lucius, Live in 25, appunto registrato lo scorso anno, esattamente il 7 e l'8 di marzo scorso del 2025, anzi alla Green Hall di New Braunfels in Texas, come sentite lui, il cantante Kevin Galloway, che poi è il leader della band dopo la ricostituzione, è fiero di essere texano, ma questo brano invece si chiama All the Angelinos, che sono davvero poi gli abitanti di Los Angeles, ed è non dico un'invettiva contro di loro, ma diciamo che non sono visti con grande simpatia. Let me get a lingo play. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, che contiene sempre Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora una volta tantissime cose, e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade. Alpha Now. E andiamo a iniziare dal 1971 con una grande band che ha avuto un successo strepitoso negli Stati Uniti, all'inizio a cavallo, diciamo, per meglio dire, fra gli anni 70 e gli anni 60, anzi gli anni 70. Infatti qui siamo nel 1971, l'album che ci andremo ad ascoltare si chiama Live the 1971 Tour, ed è l'ultimo album dal vivo in ordine di tempo di una band che si chiama Grand Funk Railroad. Loro vengono da Flint, Michigan, e sono appunto attivi dal 1969. Hanno avuto, come dicevo, tantissimo successo, sono state una delle prime band a diventare le cosiddette arena band, cioè sono state una delle prime band, se non la prima, a riempire gli stadi dal gran successo che avevano in quel periodo. E però Mark Farner, che era il leader, cantante e chitarrista, ha lasciato la band nel 1998, che ha poi proseguito con altri chitarristi, ma senza il successo che ha avuto appunto nel periodo 69, primi anni 70. L'album appunto che ci andremo ad ascoltare, Live the 1971 Tour, è composto da registrazioni effettuate in diverse città e naturalmente in diverse serate. Questo che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato alla Cobo Arena di Detroit, Michigan. Si chiama Paranoid, ma non è il brano dei Black Sabbath, è invece un brano dei Grand Funk Railroad, registrato il 29 aprile del 1971. I più attenti di voi avranno capito che questa non era Paranoid, ma era il brano precedente tratto dallo stesso concerto Full Stamping Music, grandissimo successo per quel che riguarda Grand Funk Railroad. Mi scuso, ma ci sono purtroppo abbastanza spesso delle discrepanze fra la copertina del CD e quello che è contenuto nel CD, perché anche in questo caso c'è l'intro di mezzo, sulla copertina è segnato l'intro, e quindi questo sarebbe il Paranoid, sarebbe il brano numero 3, e invece nel CD l'intro e il primo brano sono uguali, per cui sono lo stesso pezzo, per cui questo è diventato il brano numero 3. Non sono stato abbastanza chiaro, ma è lo stesso, mi sono sbagliato, facciamo così. E comunque erano sempre Grand Funk Railroad, il 29 aprile del 1971, Full Stamping Music. Una delle scuse, anzi la scusa principale per questo Record Today, è che vi posso far ascoltare dei brani che non c'entrano assolutamente niente l'uno con l'altro, se non per quel che riguarda la data di registrazione. E infatti l'unica cosa che accomuna i Grand Funk Railroad, il brano dei Grand Funk Railroad che ci siamo ascoltati con il brano degli scritti dei Druti Column che ci andremo ad ascoltare, è la data di registrazione, nient'altro, perché sono due cose completamente diverse. Druti Column è una band che viene da Manchester, è attiva dal 1978, e Vinnie Reilly, il cantante chitarrista, anche se non è uno dei membri fondatori, è arrivato in un secondo tempo, ma in breve è diventato il leader della band. Una curiosità, Druti Column è un battaglione, chiamiamolo così, di anarchici che partecipò alla guerra civile spagnola ed era guidata da Buenaventura Durruti, da qui il nome, cioè sarebbe la colonna praticamente di Durruti, colonna nel senso di battaglione appunto. E il loro secondo album, fra parentesi, si chiamava LC, che stava proprio per in italiano Lotta Continua. Giusto per collocare anche politicamente questa band. Una band molto indie, hanno fatto un album dal vivo che si chiama Domo Rigato nel 1985, ma è stato ripubblicato nel 2017, nell'85 naturalmente era un long plane, nel 2017 invece è stato ripubblicato come triplo CD più DVD. È una cosa veramente notevole, registrato praticamente tutto in Giappone, compreso anche questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Love Fading, che è stato registrato al Loft Club di Tokyo appunto il 29 aprile del 1984. Druti Column. Your love is fading. don't seem to care. You're smiling for the camera. They know your smile is fake. You've heard so many people, but you lose more than you take. You don't say what you mean. You don't mean what you say. You don't say what you mean. You don't mean what you say. Musica molto eterea, oserei dire, quella dei Duruti Column, che ha avuto un buon successo negli anni '80 sotto la guida appunto di Vanni Reilly, che è il cantante e chitarrista anche in questo caso, che ci siamo ascoltati in questa registrazione del 1984. L'album, lo ripeto, si chiama Domo Rigato ed è la ristampa in triplo CD più DVD, un ottimo box set, come si suol dire. Love Fading, il brano che ci siamo ascoltati, registrato al Loft Club di Tokyo il 29 aprile 1984. Andiamo avanti di 10 anni, arriviamo al 1994 con una band che compare spesso in questa trasmissione, perché ha fatto decine, veramente decine, forse anche centinaia di album dal vivo. Si chiamano Merillion, o Merillion a seconda della pronuncia sud o nord inglese. Vengono da Aylesbury e sono attivi dal 1979. La loro carriera è divisa in due parti, in pratica, con il simbolo del cantante. Infatti dalla loro formazione fino al 1988 Fish era il cantante con un grande successo. E dopo di lui, dal 1989 ad oggi, è arrivato Steve Hogarth con altrettanto successo. Hanno una base di zoccolo duro veramente incredibile e molti dei loro album dal vivo sono reperibili solo sul loro sito, ma sono tutti molto intriganti. Questo album che ci andiamo a ascoltare, un doppio CD, si chiama Made Again ed è uno di quelli che potete trovare tranquillamente nei negozi normalmente. È stato registrato in diverse località, ma il disco numero 2 è stato registrato integralmente perché è alle Cigale di Parigi il 29 aprile appunto del 1994. È stato registrato integralmente perché è la versione completa del loro album che si chiama Brave, quindi la versione live di questo album dall'inizio alla fine. Il brano che ho scelto per voi si chiama Living with a Big Lie, vivendo con una grande bugia. Loro sono Meridian. Worthless, the wretched and the mean. beat me up like a weapon. I can't run away from or find a way around. Thank you. Vi dicevo in precedenza che i Marillion hanno fatto decine e decine, forse centinaia di album live. Beh, i Pearl Jam di più. Dal 2000, dal tour dell'anno 2000, i Pearl Jam hanno pubblicato per il download o anche per l'acquisto del supporto fisico tutti i loro concerti, quindi andate sul loro sito, potete trovare tutto quello che volete. Ma poi c'è anche naturalmente la, chiamiamola, discografia ufficiale con album che potete trovare tranquillamente nei negozi. Questo è uno di quelli, si chiama Live at Easy Street. Easy Street è un negozio di dischi che sta a Seattle, quindi nella loro città di provenienza, stato di Washington naturalmente. È uscito questo extended play, chiamiamolo così, abbastanza lungo comunque, in occasione di un Record Store Day di qualche anno fa. È stato pubblicato anche in vinile, questo però è il CD, e tutto registrato naturalmente il 29 aprile in questo caso del 2005. Il brano si chiama Porch, da questa band che sicuramente conoscerete, apprezzerete, e che fra l'altro tramite anche la voce, grazie per meglio dire, anche alla voce di Eddie Vedder è sicuramente molto molto molto riconoscibile. Stanno incidendo un nuovo album, però pare che abbiano un po' di problemi, perché il batterista storico della band, Matt Cameron, se n'è andato dopo l'ultimo tour pare che non riescano a trovare un batterista all'altezza per completare l'album. Staremo a vedere. Live at Easy Street, Porch il titolo del brano, per Jam, 29 aprile 2005. L'ultima cosa per quel che riguarda Record Today di oggi arriva da una band che si chiama Midnight North. È una band che arriva da San Francisco, California of course, ed è attiva dal 2015. A volte suonano anche come Graham Lash and Friends. Se il cognome Lash vi dice qualcosa, il papà di Graham, che è un chitarrista, Phil appunto invece era il bassista dei Grateful Dead, quindi un personaggio conosciutissimo e amatissimo. Hanno fatto 5 album dal vivo, questi Midnight North, che sono reperibili solamente come download, di fisico non c'è praticamente niente, a parte un long play di qualche anno fa ormai. Questo Live from Peaches Records, anche in questo caso registrato in un negozio di dischi, è stato registrato a New Orleans, in Louisiana, il 29 aprile del 2019. Il brano si chiama Longview, loro si chiamano Midnight North. This is a newer song. time. Maybe we'll get older and we'll take back all that time. I can stay for just one more glass of wine. Like building a ship in a bottle. Si chiamano Midnight North, vengono dalla California, ma questo disco è stato registrato al Peaches Records di New Orleans in Louisiana il 29 aprile del 2019 e conclude in questo modo Record Today di oggi con questo brano che si chiama Long View. A concludere Città Fujiko Live Club di oggi ci pensa la novità che vi ho proposto quest'oggi da parte di Uncle Lucius, Live in 25, terzo album dal vivo per questa band che viene da Austin, Texas. Prima però appunto vi voglio ricordare che vi siete ascoltati un paio di ore di musica dal vivo, registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, e il tutto dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko, nonché potete ascoltarci tramite il DAB in Toscana, Lombardia e in tutta l'Emilia Romagna e in tutto il mondo tramite l'app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. È tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia appunto degli Uncle Lucius e del brano di apertura di questo album che, lo ripeto, si chiama Live in 25, che parla di una tasca piena di miseria, Pocket Full of Misery. Uncle Lucius, ciao a tutti da Nevio. 7-on-7 till them chains come undone. Fighting a battle that you've already won. Say, hey, hey, mom.